però adesso ridi. Non ascolti questa roba perché non ti fidi. Troppi suoni in giro, troppi alternativi. Noi arriviamo dritti al punto, non siamo ambigui. No. È una malattia, la trasmetto su di te. Te la sparo dritta in vena, senti l'eroina rap. La spruzzo sul mio popolo e mi sento come un re. Do foca a queste rime, servo musica flambé. Matti per una cultura che teniamo giù. E quando è tutto fermo ve la riportiamo su. Abbiamo troppo peso, voi non ci muovete più. E quando è tutto fermo che noi spaventiamo. Mille gradi tu non puoi tenerci in un igloo. Siamo come fondiamo il barbecue. Tanto sporco che si scandalizza bel Gesù. Festeggiamo salutando con il flute. Get dirty. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. M-I-M-A-L-O adesso. F-A-L-L-O non mi. H-A-N-N-O. Mai dato una vera motivazione per un no. Iri-ti-ti-tiri-tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Questo è un motivetto che non cambia neanche se lo giri. Entra nel tuo sangue diretto quando respiri. Entra nel tuo corpo diretto quando ti giri. Apri le tue mani che senti come suona sporco dalle dita fa. E storpio la mia voce quando provo fa. E sparo come sparo un italiano faccio pa. Dacci dei barboni, niente nomi e cognomi. Noi siamo suoni e visioni, chiamaci Mirko e Satomi. Questa roba non è fatta per i figli dei fiori. È solo arrosto e niente fumo e siamo fuori. Get dirty. Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, sporco. Lo sporco come fa, lo in coro siamo scimmie. Grida come fa, no, loro. Il mio branco crede che io sia maturo. Ma sono sempre fastidioso io, più di una banana in muro. Mettiti al riparo, sta roba arriva lontano. Qualcosa non ti è più chiaro, arraffa di un talismano. Io sono un personaggio immaginario. Vivo dentro un gioco e vi salto in testa come Super Mario. Prego guardi me, yo, dica 33. Sporco come il fumo dentro un narghilè. Rubo tesori come Lupin. E tengo il dito in alto pronto per gridare. Yes we can. Yo, dammi una lupara che spara. E mi metto in gara, dichiaro come si impara. Deserto come Sahara, in lotta come Microsoft ed Apple. Prendo la tua faccia e mi faccio un fuoricampo come in baseball. Fallo, fallo, fallo, fallo, sporco. Fallo, fallo, fallo, fallo, sporco.